tutti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Uno spettro si aggira per l'Europa. Non ha più le sembianze della grave crisi finanziaria che ha colpito il vecchio continente tra il 2008 e il 2012, ma quelle di una lunga fase depressiva originata da quella stessa crisi, determinata da prezzi fermi stagnanti per effetto della debolezza della domanda per beni e servizi. In una parola, lo spettro della cosiddetta deflazione. Prezzi fermi vogliono dire appunto economie bloccate, ripresa che si allontana. Ecco allora gli stimoli monetari della BCE che provano a dare fiato alle economie europee. Paradossi della storia, soprattutto per un paese come l'Italia, che ha vissuto anni in cui il fenomeno contrario, vale a dire l'alta inflazione, l'aumento dei prezzi che erodeva il potere di acquisto di salari e di pensioni, era il vero nemico da combattere. Stiamo parlando degli anni 70, dei tempi dell'austerity, che impose agli italiani di lasciare l'automobile a casa e di usare la bicicletta, come ci ricorda questo passaggio del film di Pasquale Festa Campanile del 1975 dal titolo Conviene fare bene l'amore. La gente si è adattata, lo so, ma non rassegnata. Ha tirato fuori biciclette, carretti, diligenze, muli e cavalli. Dunque, dicevo, la gente, la sera, vive al lume di candela, si scalda e cucina bruciando quel poco di legna che ancora riesce a saccheggiare dai boschi che restano, e fa il bucato a mano, come nei tempi antichi. Ecco, sono tornati in uso anche i piccioni viaggiatori. Ma se li possono permettere solo i ricchi e le autorità, gli altri, se hanno da mandare notizie, vanno di persona. Il 6 ottobre 1973, giorno della festa ebraica dello Yom Kippur, le truppe egiziane attaccavano quelle israeliane. Era l'inizio della guerra del Kippur. I paesi arabi, produttori di petrolio, quadruplicarono con decisione unilaterale il prezzo del greggio, che passò da 3 a 12 dollari per barile. Immediato l'impatto sull'economia dei paesi occidentali, che corsero ai ripari in ordine sparso. Gli Stati Uniti riuscirono a contenere l'inflazione attorno al 6,2% contro l'11,7% del Giappone e il 6,9% della Germania. In Italia l'impennata dei prezzi toccò il 10,8%. Alla recessione si fece fronte con una drastica contrazione dell'attività produttiva, che provocò quella che gli economisti definiscono stagflazione, vale a dire la combinazione di stagnazione e inflazione. Il riassorbimento degli effetti del primo shock petrolifero aveva richiesto circa 5 anni e si era concluso nel 78 con un tasso di inflazione del 12%, molto più elevato di quello degli altri paesi europei. Siamo al 1979 e arriva il secondo shock petrolifero, causato questa volta dalla guerra tra Iran e Iraq. Rispetto al 1978, il prezzo del greggio in dollari aumenta di circa il 150%. La contemporanea rivalutazione del dollaro determina un aumento in lire superiore al 230%. L'inflazione galoppa fino a superare il 20%. La produzione rallenta fino a determinare una situazione di pesante stagnazione che raggiungerà il punto più critico nel 1982. Anni di grandi rivolgimenti, gli anni 70. Cominciano con la crisi dei governi di centro-sinistra organico formati da DC, PSI, PRI e PSDI e terminano con la conclusione dell'esperienza dei governi di solidarietà nazionale. Cominciano con l'autunno caldo e finiscono con la marcia dei 40.000 a Torino contro lo sciopero degli operai alla Fiat. Nel mezzo, la stagione delle riforme, dal sistema di welfare, sanità, psichiatria, interruzione della gravidanza, equo canone e consultori familiari, allo statuto dei lavoratori, le gabbie salariali, ai diritti civili, divorzio, il nuovo diritto di famiglia, l'obiezione di coscienza. Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio, troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero oro nero. Abbiamo in linea il professor Gianni Toniolo, che è docente di storia della globalizzazione alla LUIS. Buonasera professore. Buonasera a lei e agli altri. Allora, ci aiuti a capire meglio che situazione c'era negli anni 70, come gli italiani come vivevano con questa alta inflazione e cosa determinò questa alta inflazione dal punto di vista proprio dell'economia del nostro paese? Beh, l'alta inflazione sappiamo che nasce un po' almeno come causa immediata dallo shock petrolifero del 1973. E questo shock petrolifero produce soprattutto in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, un'inflazione che è a due cifre. Si arriva nel 1980 al 21 e passa per cento, cioè è l'inflazione più alta registrata nella nostra storia dal 1947 a oggi, no? Sì. E come si viveva con l'inflazione? Alcuni vivevano bene, altri vivevano male. Certo. Viveva bene chi aveva un salario indicizzato, ed è per quello che in questo periodo si accentuarono molto le indicizzazioni salariali, naturalmente con un effetto poi non tanto desiderabile, che le indicizzazioni perpetuavano l'inflazione, la rendevano sempre più forte. Mm-hmm. E quindi ci fu un numero di persone, in particolare i salariati, quelli che avevano dei redditi indicizzati, che non andarono male. Invece chi aveva reddito fisso, chi aveva in particolare pensioni e altri redditi che non erano perfettamente indicizzati, evidentemente soffrì. Certo. Come si finanziò lo Stato, come si finanziarono queste spese? L'economia reale non andò malissimo negli anni 70, a parte 1975, che ci fu una grande crisi con una diminuzione del 2% del PIL, che però si riprese subito, contrariamente a quella che abbiamo vissuto di recente. E si viveva con lo Stato emetteva titoli del debito pubblico a tassi elevati. Mm-hmm. Anche molto elevati, si è arrivati fino al 20%, e però questo andava bene allo Stato, perché siccome i prezzi crescevano di più e la gente soffriva di quello che noi economisti chiamiamo un po' l'illusione monetaria, no? Ti do, sì, il 20, do il 15%, ah che bello, mi rendono un sacco di soldi questi bot. Peccato che l'inflazione, che l'inflazione te ne mangiava un po', insomma, e anche abbastanza. Ma questo andava bene per lo Stato, il quale tipicamente, come era successo nelle guerre, eccetera, si finanziava con questa emissione di titoli, che però veniva sostanzialmente ripagato dall'inflazione. Infatti il debito pubblico aumentò, ma non tantissimo negli anni. L'esplosione del debito negli anni 80. L'esplosione del debito negli anni 80, quando la Banca d'Italia, col famoso divorzio, smette di comprare quasi a piedi lista i titoli del debito pubblico e stampando moneta. A quel punto l'inflazione resta relativamente elevata e i tassi di interesse diventano positivi, e a quel punto lo Stato deve spendere un sacco di risorse per finanziare il proprio pagamento dei debiti. Certo, professore, fa una certa impressione parlare di questi dati quando assistiamo a aste con addirittura tassi negativi, cioè come se la gente prestasse dei soldi allo Stato senza avere non solo nessun rendimento, ma rimettendoci quasi, è proprio un altro mondo. E beh, certo, quelle di oggi sono dei CTZ in cui uno oggi presta oggi 100 allo Stato per ricevere tra due anni 99,8, qualcosa del genere. Sì. Quindi questo è una situazione che non si era mai verificata, devo dire, nella storia italiana, e che si è verificata pochissimo al mondo. È un mondo oggi questo completamente nuovo, e anche un mondo nel quale ci mancano proprio anche le coordinate per gestirlo, perché mentre l'inflazione si sa come se ne esce, se ne uscì con molta pena negli anni 80, alla fine degli anni 70, all'inizio della prima metà degli anni 80, se ne uscì con una politica monetaria molto dura, molto restrittiva, tassi di interesse molto alti e disoccupazione, naturalmente. A quel punto le aspettative di inflazione, la gente si aspettava sempre che i prezzi crescessero, che bisognava uccidere questa ormai abitudine della gente a pensare che l'anno prossimo i prezzi sarebbero stati più elevati e quindi a comportarsi di conseguenza. Quello fu una cosa molto molto molto dura. Certo, e poi gli anni 70 in ogni caso furono anche anni di grandi riforme, quindi anche questo è da mettere nel conto, naturalmente alcune di queste finanziate in deficit. Però Molto finanziate in deficit, sì. Però aumentò, certamente furono riforme dello Stato sociale, dobbiamo ricordare qual era la situazione, lo sappiamo molto bene, sia sociale sia politica degli anni 70, una situazione di estrema estrema tensione, con migliaia di attentati, mi pare che sono stati contati oltre 4.000 attentati in quel periodo lì, e ricordiamo poi la tragica, il culmine fu il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. Certo, nel 1978. Cioè. Nel 78, sì, quello fu il culmine, diciamo. Quindi in questa situazione, si cercò di accrescere un minimo di pace sociale e di consenso facendo delle riforme anche importanti, soprattutto previdenziali. E questa anni 70 bisogna ricordarsi che furono caratterizzati da un altro fenomeno che non si è mai verificato nella storia, né prima né dopo, cioè la combinazione di alta inflazione e di disoccupazione. Di solito gli economisti, noi insegniamo ai ragazzi il primo anno di economia, che se c'è elevata inflazione c'è piena occupazione, ci si avvicina alla piena occupazione, e quando invece c'è disoccupazione i prezzi non crescono, come succede adesso. Oggi siamo in situazione di inflazione, di deflazione, certo. Di deflazione, perché c'è un sacco di... c'è poca domanda, c'è una crisi di domanda aggregata che fa sì che i prezzi crescano poco. Grazie professor Toniolo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Chiappini, regia, Luca Cremonese in redazione. Un saluto da Dino Pesole.